neri, pagine bianche, pensieri oscuri. Quanto cazzo mi duri e tu mi trascuri. Tu non c'eri tra i miei silenzi, tra i miei affanni, tra i miei scompensi, tra i miei malanni. Io cado giù, una caduta libera, ho libertà, una caduta libera, ho la mia dura viltà. Mi detesto, no, in ogni modo, non più ludo né più alludo. Adesso cado, io mi riduco in polvere, feto e fanghi. I miei lamenti, molto fiati a svengo. Mi chiami, io vengo, immobile, sobrio, borghese come sono. Qual è il mio futuro? Sto divenendo cieco, non mi muovo più e cado. Quanti se ho trascurato, riempio il vuoto con un conato alito tetro. Il mio respiro è già malato, sprego ingoio, strofino gli occhi e muoio. Avverto il niente, dipingo traiettorie, trattandomi da trottola. Ora un po' più qua, tra i tomi del mio gap, anomalie persistenti richeggiano tra le righe, infilzando piaghe, anomalie tra le crepe. Realtà che non mi spetta, non capisco ad ogni modo. Persa l'abitudine sociale, puoi capire congelare, puoi capire congelare. Infierite, figli della puta, traite, traite, traite, traite, traite.